YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a RadioTube, bentornata anche alla mia voce. Hai sentito nel sabato del villaggio che ho avuto la voce per tutte le ore? Sabato scorso credevo di impazzire, non potevo più parlare. No, ma soprattutto io ho sentito che hai avuto Miguel Bosé. Ma io voglio, adesso la trasmissione non va in onda e mi racconti solo quella cosa di... È stato bellissimo perché io ero una sua fan da bambina, ma da bambina piccola proprio. Quindi gli stai dando dell'anzianotto? No, cioè, perché lui ha cominciato tanti anni fa. Lui ha cominciato giovanissimo. Perché sai, essendo già nato in una famiglia straordinaria, era molto popolare fin da piccolo. Ed è stato un incontro molto bello perché li capisci non solo la dimensione di un artista davvero internazionale, queste sono cose che contano, ma anche la profondità e lo spessore di un uomo che ha tante tante tante cose da raccontare. Quindi chissà se è social, tu lo saprai. Lui ha il suo account Bosé Official, sì, è una cosa normale, tranquilla. Sì, non socialissimo. Devo dire che questa settimana ogni volta che mi veniva un momento di malinconia dicevo: ma io mi sono fatta un selfie abbracciata a Miguel Bosé, ma che mi frega, me lo riguardavo. Sì, ti ha cantato qualcosa? Tu fai sempre cantare i cantanti, non ho usato la tua canzone preferito in questo caso. Non ho osato dire a Miguel. Va bene, sai no, che però dunque, sai che mi ha chiesto, sì, siccome gli ho confessato di avere moltissime videocassette di quando ero ragazza, mi ha chiesto se gli riverso un po' di video che lui ha perso. Ma tipo Operazione Trionfo? No, cose proprio degli anni prima ancora. Sì, mi ha detto: guarda, se mi trovi queste cose, perché lui sta cercando, pensa che sta cercando, anzi lo dico anche agli ascoltatori, un video che aveva girato Andy Warhol. E questo video non sarà facile, perché purtroppo è stato perso e nessuno riesce più a trovare questo video di Angeles Caídos che ha girato Andy Warhol. Anzi, se qualcuno l'avesse, ce lo faccia uno dei rarissimi video che ha girato Andy Warhol, e l'aveva girato proprio a Miguel Bosé. Anche per segnalarci questo video potete usare i nostri account, giusto? Sì, @MartaCagnola. @ Di Bellasio, # RadioTube, cancelletto RadioTube, oppure quello del sabato del villaggio stupendo, # ID. No, aspetta. Non ce la farò mai. Dai, dillo tu allora. ISDV, il sabato del villaggio. È molto semplice. Però ti sento più tonica. Queste due ore precedenti sono state più leggere del solito. Sì. Di cosa parliamo? Parliamo di una cosa. Tu mi hai mandato subito il tweet. Mi hai inoltrato il tweet via mail appena l'hai visto. Di questa brevissima anticipazione video. Sono 12 secondi. Sono tre parole in tutto. Per chi è in crisi d'astinenza come me, 12 secondi sono già tanti. Allora ascoltiamo subito questi pochissimi secondi della nuova stagione di House of Cards. Tell the truth. Selectively. Dite la verità, ma in maniera selettiva. Ecco, ma come tradurresti? Dite la verità, ma non troppo. Scegliete, ma non sempre. Dite la verità, ma scegliete quanto. Ma secondo te è selettiva nei contenuti o selettiva nei destinatari della verità? Conoscendo i protagonisti di House of Cards, tutto. Tutto. Cioè, tutto a metà. Tutto a metà. Dire solo quello che bisogna dire per trarne beneficio. House of Cards, si sa che è la serie che va nei meandri dei segreti della Casa Bianca, perché questo finisce nella politica di tutti i paesi, perché questo Frank Underwood è un protagonista della politica americana, ovviamente immaginario, all'apice del successo, però per arrivare al successo ne ha fatte di tutti i colori. E adesso com'è che funziona? Adesso sta arrivando la terza su Netflix. Guarda, giusto? Ne abbiamo parlato anche nel sabato del villaggio. Sta arrivando la terza stagione su Netflix, cioè questo servizio on demand solo in America, streaming, dal 27 febbraio del 2015. Quindi adesso arriva la terza stagione. Invece da noi arriva su Sky Atlantic la stagione in contemporanea sottotitolata. Intanto però abbiamo parlato nel Sabato del Villaggio del fatto che finalmente si vedrà in chiaro per tutti su Sky TG24, e quindi perché adesso vediamo, Sky TG24 è arrivata in chiaro, e abbiamo fatto anche un po' di informazione di servizio. A proposito di presidenti completamente diversi, sì, proprio gli antipodi. No, però dai, siamo in clima presidenziale, L'hanno eletto. L'hanno eletto. Poi sabato scorso noi siamo andati in onda proprio a ridosso delle elezioni, non c'erano state ancora le reazioni dei comici. No, io ho perso la scommessa, sai. Ho giocato 2 euro, avevo scommesso per Padoan. Sì. E invece è stato eletto il presidente Mattarella, cioè qualcuno che subito è riuscito a parlarne. Ma secondo te era vero che stava improvvisando? Allora, gli veniva da ridere, Maurizio Crozza veniva moltissimo da ridere. Quindi era vero, dici. Secondo me stava improvvisando, forse no, però sicuramente ha avuto pochissimo tempo per mettere in piedi questa imitazione. Intanto sentiamo come Maurizio Crozza all'inizissimo di martedì ha introdotto l'elezione del presidente Sergio Mattarella. Ma quanti democristiani ci sono ancora in circolazione? Tanti, tanti. E Mattarella è straordinario perché li reincarna tutti. Ha il cappotto di De Gasperi, gli occhiali di Forlani e l'andatura di Andreotti. Con Zaccagnini, Mattarella c'era con De Mita, con Aldo Moro c'era, lui c'era sempre. Lui era già con lo scudo crociato, quando lo scudo ce l'avevano i crociati quelli veri. Ma tu non hai idea, Giova, il personaggio che è Mattarella. Personaggio straordinario, integro, rigoroso, morigerato, sobrio. E così sobrio che in confronto Napolitano sembra Fabri Fibra. Ha una panda grigia, un vestito grigio. Fa le foto con le suore grigie sulla panda grigia vestito di grigio. 50 sfumatore di grigio potrebbe essere la sua biografia. Non si tromba mai, però c'è tanto grigio. Comunque, a parte gli scherzi. Informissima Crozza questa settimana. Io l'ho trovato straordinariamente in forma. Ha anche fatto l'imitazione, ecco, di lì volevo Sergio arrivare, Mattarella. Lì. Allora, siccome adesso abbiamo una brevissima pausa per il traffico, facciamo che ci aggiorniamo su come sta andando la situazione su strade e autostrade, che in questi giorni è stato un po'. In questi giorni bisogna stare un po' attenti. Medica nel villaggio. Facciamo così un cliffhanger, un finale sospeso, e tra poco ascoltiamo. Sì, tra poco ascoltiamo l'imitazione di Maurizio Crozza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Radio Tube. Rieccoci dopo le informazioni sulla viabilità. In questi giorni sono importantissime. A proposito di viabilità, tu hai una cosa in comune col presidente, perché sì, anch'io la panda. Il pandino. Finalmente posso dire di avere la macchina presidenziale. Hai la macchina presidenziale. Tu ce l'hai rossa però, arancione. Ah, scusa. La mia arancione. Io pare, ma non è detto che sia così. Pare. Invece in comune ho la fede calcistica. Anche se c'è grande discussione anche in rete se sia o no interista il nuovo presidente Mattarella. Io me lo immagino proprio tifoso accanito, ecco, per come ha detto, va lì allo stadio con la panda. Come ha detto Crozza. Guarda che lo stadio trasforma un sacco di persone. Comunque. Ebbene sì, abbiamo sentito appunto Crozza come descriveva il nuovo presidente della Repubblica, ma così lo ha imitato facendo ridere moltissimo anche tutti Floris, in studio. Anche Floris, hai visto? Cioè, Floris non riesce a tenersi. Floris sghignazza, c'era la Boschi con il suo shakush. Non ha riso, sorrideva. No, non ha riso. Ci sono stati fior di articoli giornalistici sul fatto che non ha riso. Ha sorriso alla fine, sulla battuta finale la Boschi ha sorriso. Eccolo qua, un frammento dell'irresistibile, posso dirlo, imitazione di Maurizio Crozza di Sergio Mattarella, eccola qua. Non mi si nota mai. Pensate che quando ero piccolo a scuola ero così poco notato che i miei compagni mi appendevano i cappotti addosso. All'appello ero segnato la voce altri. Io, un uomo mai notato. Pensate che nella foto della mia patente io sono quello dietro. Sono così poco notato che alla buffette di Montecitorio ha ordinato un caffè nell'83 e lo sta ancora aspettando. Ma ora lasciatemi rivolgere un pensiero, scusate, avevo riso solo nel 45, ma ora lasciatemi rivolgere solo un pensiero ai tanti volti che porto nel cuore. Il mio primo pensiero va al volto di colui che col mio insediamento può finalmente abbandonare il suo gravoso compito e concedersi un meritato riposo, Enrico Mentana. Questa è la battuta più bella. La battuta più bella è Enrico Mentana, che è stato un po' il protagonista della settimana. Ma io farei un passo indietro. Facciamo un passo indietro, come dicono quelli che conducono studio, bene. Un passo indietro, cado dalla voltiamo sedia. Voltiamo pagina, non so come si dice. No, farei proprio un passo indietro fino a dicembre. Perché Gazebo, è da un po' che non parliamo della trasmissione di Rai 3 Gazebo, condotta da Diego Bianchi, sostiene di avere previsto addirittura il 22 dicembre, sì, loro la scommessa l'avevano vinta, l'elezione. Proprio Mattarella avevano detto. Sì. Ma sì, guarda sì. Te. Allora, complotto di Gazebo. Hashtag era Gazebo, lo sapeva. Il patto del Gazebo. Questo era il video che loro dichiarano di aver girato il 22 dicembre. E di aver consegnato a un notaio. I protagonisti, se sentiamo, i protagonisti erano Diego Bianchi e Andrea Salerno. Ecco qui cosa hanno mandato in onda appunto a Gazebo su Rai 3. C'è uno scoop. Di un po' quello che mi ha detto a me. E niente, mi hanno chiamato dalla Giamaica. Chi ti ha chiamato dalla Giamaica? È un amico che ne sa parecchi. Stavate a parlare del più e del meno. E niente, una certa se ne è uscito, mi ha detto: ma sai che il nuovo presidente sarà. Ha detto chi sarà il presidente della Repubblica. Italiano. No, giamaicano. No, italiano. E come ti ha detto di preciso? Io ho capito mozzarella, una così, mi sembra. Però. Mozzarella. Mattarella, bravo. Mattarella. T'ha detto Mattarella? Sì. Allora, mo famo sta cazzata. Oh, ma famo una cazzata, no? Tanto, se va male. Se va male non lo famo vedere, ma se va male famo un figurone. Allora, mo noi scriviamo il nome di Mattarella dentro una busta. L'apriamo solo quando fanno il presidente. Solo se ci azzecca. Se non arriva del merda, che ce lo fa fare? Vedi, Gazebo lo sapeva, loro l'hanno vinta la scommessa. Ma che bravi. Tu no, tu io hai no, sbagliato. Se hai 2 euro, vabbè, proprio giochi che... forte. Gioco d'azzardo. Io. Urca, bisogna giochi essere forte. Sobri. Sei già sobri. Un po' grigio Mattarella. Stavo pensando di prendere una panda, infatti. Guarda, la panda. Ecco, usiamola assieme, ce la prestiamo. Sì, car sharing. Sì, allora la mia, però, ti ho detto arancione. Va bene, è un po' troppo, vivace. Comunque Mentana, dicevamo. Gazebo. No. Mattarella. Ha vinto la scommessa e Gazebo ha anche raccontato un po' quello che stava succedendo dietro le quinte durante l'elezione del presidente. Noi eravamo qua in redazione a fare i conticini, anche noi. Ma cosa stava succedendo in quel momento? Sentiamo sempre il racconto di Diego Bianchi, di Zoro. Mattarella in Cosimato e Bianca, questa è la foto, diciamo. Sono Renzi e Napolitano che seguono lo spoglio. I due kingmaker. E sperando di trovare da Milano lo seguono sulla 7. Ma da Milano sta da noi, lo dico, a Napolitano e Renzi. Cioè, no, non è che... Allora, quest'immagine di Renzi e Napolitano che seguono la 7 ha fatto il giro della rete. Cos'è successo? Sì, cos'è successo? È successo che questa foto, scattata da Filippo Sensi e pubblicata da Filippo Sensi, che è il capo della comunicazione del PD, che noi conosciamo con il suo account di Twitter, che è Nonfup, praticamente lui ha fatto che ormai proprio, è un fotografo, diciamo. Che ormai sì, ma non solo fotografo, è proprio l'inventore di una scuola nuova di fotografia. Le fotografie del backstage di qualità di no, beh, anche la qualità fotografica è singolare, nel senso che sono spesso sfocate, sono spesso dettagli che paiono ai più insignificanti, ma che studiato, nascondono esatto, che nascondono le notizie tra una cosa e l'altra. Lui appunto ha instagrammato, perché è importante, perché questa è stata la settimana di Instagram, certo. Ha instagrammato questa foto in cui stavano in realtà le più alte cariche dello Stato, in attesa delle elezioni del nuovo presidente, stavano guardando la 7. Cioè non guardavano il servizio pubblico. Quello è stato, ma è stato è gravissimo, un caso. Gravissimo. È stato poi un caso praticamente informativo fortissimo. Io devo dirti che guardavano la 7. Ma guarda, secondo me tutta la mia timeline di Twitter stava guardando la 7. Secondo me stavano guardando la 7 perché anche loro sono innamorati di Alessandra Sardoni. Sì, certo, questo senz'altro, perché come tutti, che salutiamo Alessandra. Sì, Alessandra, perché su Twitter ormai era nato il team Sardoni. Tutte Sardoni le volte al Quirinale, che succede qualcosa. Sì, ogni volta tutti a tifare per Alessandra Sardoni. Secondo contro quello schiavista di Enrico Mentana. Esatto, secondo me per due ragioni. Uno, perché Alessandra Sardoni è la più brava di tutti e si sa, cioè proprio non ci sono storie. Due, perché regge il direttorone. Esatto, ne hanno parlato Daria Bignardi alle Invasioni Barbariche, li ha fatti incontrare, ha fatto la carrambata, ha fatto arrivare Mentana in studio a sorpresa mentre parlavano. Sorpresa? Vabbè, a sorpresa, però loro hanno detto siamo giornalisti, l'avevamo capito, intuito. C'erano ospiti Paolo Celata e Alessandra Sardoni, appunto le due star di questa maratona quirinale infinita. Che pensavano di essersi liberati di Enrico Mentana. Invece eccolo qua cosa ha detto loro, Enrico Mentana. No? Così. Ma scusa, ma come ti è venuto da dire a Bersani hanno invitato cani e porci e... Qui siamo a Milano, molti loro, cioè si dice nel linguaggio. No, parlato. No, ma anche noi lo diciamo. E c'è chiunque, e quando si dice c'è chiunque, ma io mi riferivo al fatto che ci sono anche molti giornalisti. Ma tu l'hai detto perché sapevi che lui è uno spirituoso. No. L'avresti detto? L'avrei detto anche a chiunque. Scusa, non faccio nome. Ho visto che avete messo alcune gag, ma ce n'è stata una. C'era con Alessandra, c'era Gaspari che si dilungava. Io ho detto, Gaspari purtroppo bisogna andare alla pubblicità, poi allora, scusi, certo, lui ha fatto la legge Gaspari, non può essere contro queste cose. Se è andato, ho detto, non è vero, non c'era la pubblicità. Vengono fatti in sera. Vedi che. Cos'è? Sadico. Sadico, quello sì, è tutela del telespettatore. Se questa sera si sta liberando. Si sta liberando dal suo ruolo, perché da domani si occupa d'altro, no? La viticoltura in più. Il nostro Paolo. Sei sadico? Allora Mentana è un genio, però è irresistibile, non è facilissimo lavorare con Enrico Mentana, che però è assolutamente il numero uno di tutti. E poi Alessandra Sardoni ha confessato, poi alle sue si battute diverte, sui ride, quello è vero. E poi Alessandra Sardoni ha confessato invece di avere sbagliato perché era convinta che stesse guardando la 7 anche il futuro presidente Mattarella mentre stava aspettando l'elezione. Beh, si erano montati proprio. No, perché in realtà ha postato invece su Facebook, non su Instagram, le foto il nipote di Mattarella mentre stava tutta la famiglia guardando la TV. In realtà loro stavano guardando già da presidente il canale della Camera dei Deputati. L'uno? Addirittura il canale della Camera dei Deputati. Sì, sì, e quindi dalla fascetta lei lei era proprio era convinta che fosse e invece, che ci no, no, ma invece aveva proprio scelto il canale ufficiale, Vorrei invece concludere con i 5 Stelle. Sì, che hanno fatto questo video. Questo video in cui un ragazzo gira per la città e fa un sacco di spese e paga tutto con le lire. Io mi sono detto dove le hanno trovate, cioè si sono tenuti nei cassetti vari. Beh, hanno aperto sì, dai, qualche tutti, mille, qualche sì, diecimila ce l'abbiamo tenuti, tutti. Sì. Ecco qua un brevissimo estratto da questo musica, video. Sì, eccolo. Il Movimento 5 Stelle sta realizzando il tuo sogno. Uscire dall'euro è possibile, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Firma anche tu. Vabbè, allora intanto se sta realizzando il mio sogno io sono tranquilla. Ma che insomma, mi sento nelle... io un po' meno, eh. Comunque, cosa è successo? Che in rete si sono tutti spaventati perché hanno detto vabbè, torniamo alla lira ma nessuno che faccia uno scontrino. Perché lui va in tutti, questo ragazzo va in tutti i negozi, paga con la lira ma nessuno che gli faccia uno scontrino. Beh, ovviamente. Perché l'hai il libro di Whitman, mi pare, no? Sì, su cui tu avrai fatto la tesi, immagino. No, io mi sono laureata in francese. Però, insomma, la taverna è una star della rete, eh? Molto odiata, molto amata, molto... Sì, devo dire che alla fine questo video ha avuto la sua efficacia. Sì, a parte il contenuto, diciamo, un po' folle, ma comunque però, anzi, se però lei mi promette di realizzare altri desideri, io glieli scrivo e glieli scrivo in privato. Vuoi cambiare facciamo panda? Delle altre... vuoi un altro tipo di panda? Facciamo un... mi fa un altro spot, un altro referendum. YouTube. Caro Daniele, sono molto molto emozionata, no, perché è il momento dell'ospite. Io di più questa volta, tanto emozionato. E sai che ti posso dire uno dei sogni della mia vita proprio? Ah, un altro sogno? Sì, essere la puntata dei sogni. Proprio un sogno grandissimo. Dimmi. Che un giorno, prima o poi, lui si innamori fisso di me. Addirittura, sì. Una dichiarazione in diretta. Sì. Lo so che la concorrenza è tanta, perché lui si innamora fisso di donne straordinarie, però vorrei che un giorno si innamori fisso di me. E perché, chi ha capito perché, l'espressione sa già di chi sto parlando. Abbiamo al telefono da Codogno, città non paese, Maurizio Milan. Buongiorno, ciao, anzi ormai buonasera, ciao, Maurizio. Buonasera, ciao. Io voglio subito citare l'inizio di Lettere d'amore, perché le donne vogliono l'uomo che nel parlare esagera. Ed è verissimo. Che è verissimo, che è proprio il suo libro che sta uscendo in questi giorni. Fino al 1850 a Milano era tradizione che un uomo come pegno d'amore si buttasse nelle fogne nord della città. Dopo circa 20 orette veniva sparato fuori a diversi chilometri da dove era entrato. Da oggi noi uomini innamorati come cani di donne bellissime, di solito cantanti pop, torniamo a fare questa curiosa pratica vietata dal comune. Quindi Maurizio Milani si fa... Sì, no, sai, il comune non vuole, perché dice che poi gli fai causa. Cioè, hanno quel vizio che noi andiamo in pericolo per amore, poi però quando diventiamo un po' sobri diciamo faccio causa al comune di Milano. E nella persona del sindaco Pisapia, anche della Moratti. Ah sì, perché anche per prima. Invece io volevo leggere quello che dice Maria Rosa Mancuso, critica cinematografica e anche della Radio Svizzera, del Foglio, di altri giornali, Corriere. Insomma, che dice: Maurizio Milani deve essere promosso nella Serie A degli scrittori perché ha i due requisiti che servono: un mondo e una lingua. Ti senti? Ti vedi? No, mi vedo male, perché a dirti la verità il mio sogno era andare a Miami, sì, la mattina a Jennifer Lopez verso 6:30, sì, su diciamo il viale dell'oceano, sì, corre sempre e mi dicono che non ha le guardie del corpo. E chi te l'ha detto? Mi piacerebbe proprio andare lì, consegnarle a mano una lettera d'amore, scritta in italiano, poi andrà in qualche pizzeria a Miami a farsela tradurre. E gentile Jennifer, sì, dico la verità, di tutte le donne che ho conosciuto in vita mia, lei è quella che mi ha spaccato in due il cuore, e quando la vedo nei videoclip musicali salto per terra e ho come dei malori, e non avevo... Da quando ero bambino ho avuto dei malori da bambino, a dire la verità. Per genere. Hai capito, Marta, che concorrenza, capito, che hai? Io non cioè, ce la farò Jennifer mai Lopez a farlo innamorare di me. Però allora, visto che abbiamo anche dei video di Maurizio Milani, c'è cioè proprio un video in cui lui scrive una lettera d'amore. Eccolo qua. È capitato, per fare ingelosire la mia amorosa, che sono andato da una ragazza, che non è neanche una zingara, sembra, ma è normale, diciamo, come abbigliamento, però potrebbe anche essere una zingara, essendo io nomade, che lei ha scritto una lettera d'amore che mi chiede sposo con calligrafia femminile. Cosa succede? A questo punto la faccio vedere alla mia amorosa e gli dico: sono molto leale con te, questa è la lettera che mi ha spedito una ragazza che mi chiede in sposo, la mia fidanzata mi ha lasciato. A quel punto ho ripreso a bere, mi sono buttato per terra, per adesso mi trovo bene, ho perso anche il posto di lavoro e vorrei fare anche qualcosina per la mia città, tipo dipingere sui muri o anche scrivere un libro sulle persone anziane che fanno tante cosettine anche belle. Beh, straordinario. Tra l'altro, io ho letto l'incipit del libro e nella pagina dopo già si innamora di Lina Palmerini del Sole 24 Ore. Sì, quindi è bellissima. Che è veramente molto bella, però oltre adesso dovresti brava anche guardare un po' alla radio, alle giornaliste, ecco, radiofoniche. Sì, ma sempre perché, pubblicità. Sì, no, nel senso, io sto cercando di propormi a no, Maurizio. Ma domani ti scrivo subito sul foglio una lettera d'amore. Sì, dicendo, molto esagerata. Sì, no, bisogna... Allora, il titolo dovrebbe essere: dire ti amo senza essere convinto. No, no, no. Che no, cattivello. Cattivo. No, no, ma non no a te. In generale la rubrica è anche dire ti amo. La donna vuole sentirsi dire ti amo, per cui tu, per galanteria e per non offenderla, a me capita spesso, anche sul mercato oggi c'è un metro di neve, fermare una signora, anche sulla mia età di 56-57 anni, che è in difficoltà con le borse. Sì. Sai quelle che si lamentano da Roberto Poletti a Tele Lombardia, no? No, vabbè, ma scusa, però, e l'aiuti, no? No, beh, no. L'aiuto, le dico, signora, voglio dire una cosa, che è anche un contesto poco nobile per fare una dichiarazione del genere. Sarei innamorato di lei. Ma? E vorrei dirle ti amo senza essere convinto. Per cui sono sincero come ragazzo, è inutile prendere in giro la gente. Sì, però l'uomo, specialmente se anziano, deve essere falso, sia con la fidanzata che con gli amici. Dire balle dalla mattina alla sera, non so perché fa così. Lo scrivi tu? Ma no, ma anche perché la donna vuole che il suo uomo sia nei servizi segreti. Allora voglio dirtelo chiaramente, Bellagio è dei servizi segreti. Sì, l'hai anche scritto sul foglio. A me mi ha detto, in via Veneto, l'ambasciata americana mi ha dato un link con tutti, diciamo, i collaboratori della CIA, ma no, e anche il console di Milano, e c'è il dottor Daniele Bellagio. Mamma, non è vero, è vero, faccio giornalista. Ma dai, diciamolo che noi collaboriamo con i servizi. Senti, è bello dirlo. Maurizio, a te piacciono i social network? Mi piacciono, ma non li so usare. Mi piace Facebook, così Twitter. Beh, però una pagina Facebook c'è. Ma la cura un mio amico, si chiama Fabio Bergamaschi, la cura lui perché non sono capace. Magari viene da me, le do qualche fotografia di tanti anni fa, che eravamo allo Zelig o così. A proposito, Daniele, ho fatto causa allo Zelig, senza motivo. Ah, senza motivo però, okay. No, non c'è motivo, è stato per muovere un po' i tribunali civili. Ah, visto che hanno poco lavoro, tu dici. Ma no, tanto sai, mi conosci, sai che come uomo dico un sacco di balle anche, no? Creo allarmismo anche. Creiamo allarmismo. Sì, anche il procurato allarme, sai quando dico magari che faccio spaventare le comunità, no? C'è la frana, ma non c'è la frana. Si chiama procurato allarme, sono quei deficienti che girano, che fanno così per far innamorare ragazze. Ecco. Ma sai che io ho scoperto un video, che era proprio sul sito del Foglio, nel quale tu annunciavi di voler cambiare carriera? E ascoltiamo insieme che cosa avresti voluto fare. Ho deciso, vado in seminario stasera, serale. Se mi piace sto lì, se no vengo a casa, prendo il pendolino delle 5. Penso che mi prendano come, diciamo, seminarista, perché non so il latino, non so il greco, io sono la terza media. Come, diciamo, roba mi piacerebbe diventare anche vescovo entro 5-6 anni e avere la diocesi di Arieti. Qui fare il vescovo a Rieti, vestito anche da civile, così girare, telefonino in mano, tesserino dei servizi segreti, essere capo dei vescovi della Croazia. Cosa dici? Sarai in grado? 51 anni, buon bevitore. Poi dico no, voglio ripensarci, vado a fare domande all'AGIP. Da vescovo penso che mi prendano, ragazzi. Beh, non l'hai fatto, però poi alla fine non sei diventato vescovo. Ma che ne sappiamo? Magari. Ah no, però magari sta ancora vescovo, studiando. No. Magari sta ancora studiando. Dai, la frase più importante che puoi dire a una donna aiutami. È, con pausa, vado a prete per te. No! Sì, è la frase, il massimo, allora lì puoi buttarti per terra, puoi fare anche la gara di chi mangia più uova sode, però... Ecco, questa è meglio. Sono belle, però se tu dici a una donna... Allora, tu ci stai pensando per metterti con me, già 5 anni. Sì, beh, 5 e non ti decidi mai e continui, tira molla. A questo punto, Paola, mettiamo un nome a caso, vado a prete per te. Quindi è una frase molto importante, perché ricorda un po' Uccelli di Rovo, ricorda un po' tutte quelle robe molto, diciamo, contrastate, l'amore che lui... tipo Monaca di Monza, non so, spiegami qualsiasi riferimento letterario. Senti Maurizio, tu sei un grande conoscitore della DC. Sì, hai molto anche raccontato queste elezioni presidenziali. Sì. Che cosa ti senti di dire alla fine di questa prima settimana del nuovo presidente? Che giustamente il presidente ha ribadito che per adesso la legge anticorruzione è meglio non farla. Anche perché io come attivista democristiano ti dico sinceramente che qualcosina vorrei avanzarmi, cioè va bene darmi da fare per la mia collettività, però solo il gettone di presenza in consiglio comunale è un po' pochino. Allora mercoledì stavo in casa a vedere Internazionale per andare a prendere degli impegni, a me anche una villetta schiera, se me la fai pagare un po' meno perché a sua volta ho dato i terreni, mi fa piacere, allora facciamo politica gratis, allora non la fa più nessuno. Ma senti, ma e tu che corrente sei? Io sono la corrente praticamente di Zaccagnini, sì. Forlani e prima ancora Fanfani e neanche De Gasperi, eravamo una corrente che non era mai neanche riconosciuta, perché nella nostra sezione è venuto giù il commissario, diciamo, della DC allora di Lodi, e ci ha cambiato le serrature, perché noi praticamente i propri birri ci avevano diffidato della DC, Daniele, ecco. Sì, perché facevano tutti dei ragionamenti da cretini, allora è venuto giù il commissario, il segretario provinciale, sì. E voleva buttarci fuori della DC, no? E durante il suo discorso mi sono alzato e ho detto mi oppongo, e tutti hanno applaudito. Quindi lui è andato via e ha cambiato le serrature. Sì, ha cambiato le serrature, ma poi dopo, avendo che io portavo 1800 voti su 2000... Ah però, buono. E non è che mi buttava fuori, andavo in un altro partito. Certo. Spostava voti. Niente trasformismo. Il voto di scambio, praticamente, sì. La cosa più bella che c'è in una democrazia. No, se vogliamo parlare seriamente, se vogliamo invece fare della propaganda per farti vedere che siamo contro la fame nel mondo, ok, sono anch'io contro la CO2. Se vogliamo dire le cose come stanno, l'uomo deve rubare. Maurizio, ti possiamo chiedere solo un attimo di pausa perché dobbiamo andare a sentire come va la situazione sulle strade, visto che anche tu hai detto che c'è un metro di neve al mercato a Codogno, sì. C'è un metro di neve al mercato, sì, un metro anche di più. Ecco, allora sentiamo come va anche nel resto d'Italia e ci ritroviamo tra pochissimo. YouTube. Stavolta che danno mi stai combinando giù? Lascio qua l'immondizia. La cisterna con il liquame l'ho già scaricata all'ambro. È un po' che lo inquino, mi sono sempre trovato bene e anche lui ci tiene. E sei venuto qui con tutto sto pattume? Sì, è un peccato che uno spazio così grande sia occupato solo una volta alla settimana. Milano pretende una discarica abusiva vicino alle abitazioni dove buttare dentro tutti i rifiuti insieme. Qua il posto c'è. Scusa un attimo, ma ti rendi conto che stai mettendo a repentaglio la vita di 2,5 milioni di milanesi? Sì, ma anche i 5 milioni di ratti che abitano nella nostra città sono in pericolo. Anche per loro dobbiamo trovare uno spazio ideale dove possono mangiare, riprodursi e con tutta serenità fare quella che per loro è una missione, infettare. Eccolo qua Maurizio Milani, autore di Lettere d'amore perché le donne vogliono l'uomo che nel parlare esagera. Ancora buonasera Maurizio. Buonasera. Questo video è un video d'epoca perché c'è qualcuno che ha messo tutti i tuoi video d'epoca su YouTube. Sì. Ho visto, infatti hanno... il video mi ha telefonato proprio il padrone di MySpace che ha comprato YouTube. Ha detto le faccio i complimenti perché sono i video meno visti nella storia, diciamo, di questo network. È una roba da matti, neanche a fare apposta nessuno riusciva a far così poco visualità. Ma anche per questo sei un grande, no? Infatti mi ha chiamato anche quello là, Zuckerberg. Sì. Fa, ragazzi, lei su Facebook... siamo stati un po' lì a aspettare se andavano su, ma è già un anno che al sito di Facebook c'ha due amici. Ecco, e siamo anche... noi, siamo io e Marta. E siamo tu, esatto. Ha detto, ragazzi, neanche l'ultimo pirla di non so dove ha meno amici di lei, per cui vorrei conoscerla e dargli azioni Facebook a un prezzo, diciamo, la metà di quello di Wall Street. E tu le hai prese. Vedi, un mondo... comunque un mondo, una lingua, uno Maurizio, scrittore. Però sì. A questo punto non te l'ha data l'amicizia su Facebook Maria Elena Boschi, alla quale hai scritto la lettera, appunto, lettera a Maria Elena Boschi, scopo chiederle l'amicizia su Facebook? Non so perché non guardo mai lì, praticamente dovrei chiedere, appunto, ti dicevo, col mio amico che mi cura perché, sai, Maria Elena Boschi è la donna di cui tutti gli italiani dai 25 ai 61 anni sono innamorati come scemi, eh? Cioè, c'è gente che per Maria Elena Boschi, poi quando gli fanno i primi anni a 8 e mezzo che gli inquadrano solo il viso, gli occhi, che brillano, c'è gente che spacca il mobilio, in casa, Cioè, che la moglie fa, chiamano quelli della salute mentale, perché c'è gente che diventa pazzo per Maria Elena. È la donna più desiderata a questo punto del mondo. Beh, del mondo. Dell'universo. Ah, addirittura. Se devi esagerare, le donne vogliono l'uomo che nel parlare esagera. Esageriamo. La vista in costume su Novella 2000 quest'estate a Marina di Massa. Guarda, sono subito andato in farmacia a prendere delle gocce, sai quelle che calmano? No, le gocce che calmano l'innamorato sono delle gocce potentissime. Senti, ma Maurizio, il prossimo libro su cosa lo fai? Il prossimo libro lo faccio, si intitola Come Tori al sole. Sì. Praticamente è uguale a questo, bene o male cambia un po', perché se fai caso gli argomenti sono sempre quelli, lettere, che sono un falso nomade, CO2. Come Tori al sole comunque ha anche un risvolto borsistico addirittura. Bello. Economico. No, perché, sai che Maurizio è un grande intenditore anche di economia. Comunque, sì, tu ci devi richiamare all'ordine. Io devo salutare Maurizio grazie, Milani, grazie autore di... Aspetta che te lo dico serio. È Lettere d'amore perché le donne vogliono l'uomo che nel parlare esagera, che è edito da Wingsbert. Grazie Maurizio. Grazie a voi, un bacio. Ciao, grazie. A presto. Ciao, che ciao. Meraviglia. Io spero che davvero un giorno si innamori un po' di me, perché come si innamora lui, ma non ha detto si che domani nessuno. Ti scrive non troppo convinto. Allora, non troppo convinto, vabbè, vedremo di convincerlo. Abbiamo ancora pochissimi minuti, chiudiamo, ma dobbiamo parlare di qualcuno che sta facendo qualcosa di proprio bello in rete. Sì. In realtà, quando nacque Giova TV, la segnalammo subito, Sì. Segnalammo subito che Giova TV era nata, eravamo sul pezzo, però questa Giova TV, cioè la televisione cresce. Online di Jovanotti, cresce. Salta. Sì, salta, sì, perché salza il vento. Ha messo, intanto sta centellinando il suo album. Brano per brano, bello, mi piace questa cosa dell'attesa, ma del poi fatto i backstage sono bellissimi. E allora sentiamo un pezzettino di backstage di come è nata Si alza il vento. Si alza il vento, bisogna vivere. Si alza il vento, bisogna vivere. Non c'è nemmeno il tempo per riflettere. Beh, lui, videocamera, tecnicamente bellissimi, sono proprio belli. Non è che li fa come i video col cellulare, no, sono proprio belli. E lui sta facendo vedere come sono nati le varie tracce del suo album. Bello, le sta facendo intanto conoscere uno a una con dei piccoli video o dei video che spiegano ad esempio i testi delle canzoni. E le poi sta anche facendo vedere. Chi lo aiuta, sì, molto bello. Bello, mi piace poi molto. La partenza per l'America. Però qualcuno si è un po' arrabbiato invece perché fa le recensioni dei film. Un po' di critici hanno detto: vabbè, ma non è che di film può parlare chiunque. Vabbè, che c'entra? Cioè, noi parliamo tutti i giorni, tutti i sabati. Beh, insomma, alla fine Jovanotti però ha confessato: spiegato. Io non è che capisca tutto di film, capisca tutto di libri, voglio semplicemente raccontare qual è l'emozione che mi danno dei libri. Aveva recensito già molti libri nelle scorse settimane, cioè. Aveva spiegato dei dischi e anche quello, insomma, però adesso ha cominciato anche con le recensioni cinematografiche, ha iniziato con Birdman. E gli è piaciuto, no? Sentiamo qua. Ma questa volta si è veramente superato, questa volta ha fatto una bomba atomica, questa volta ha fatto un film che sono andato a vederlo e mi ha lasciato proprio, mi ha lasciato così, mi ha lasciato non di stucco, ma ha lasciato di carne, mi ha lasciato di carne e luce, mi ha lasciato di fuoco. Mi è piaciuto molto questo film, mi è piaciuto molto, è una grandissima prova di regia, è anche una grandissima prova di scrittura ed è anche una grandissima prova di recitazione ed è anche una grandissima prova di tecnica cinematografica, ma è prima di tutto un grande assolo, una grande, neanche un assolo, una grande prova, una grande prova di regia. E gli è piaciuto Birdman, eh? Sì, ha usato termini appunto da critico un sì, po'. Sì, sì, no, gli è piaciuto, però, gli è dai, piaciuto. Si può parlare sai del cosa del mi è piaciuto invece? Sì. Anzi, adesso guardo Gian in regia, se Gian ce la mette un po' in sottofondo mentre salutiamo, perché è finito il tempo, sì, come vola il Gio, tempo. Guarda, la mia preferita finora tra quelle che ha fatto sentire è questa qua, che è L'alba. A me piace tanto perché trovo che il testo sia non si torna bellissimo. Indietro? No, non si torna indietro, è troppo, troppo bello. Il testo è molto bello. L'alba ci tiene compagnia mentre salutiamo, perché mi ormai piace siamo questa giunti cosa alla che mentre fine. Salutiamo. Salutiamo con l'alba, salutiamo in compagnia di Jovanotti. Sabato la prossima prossimo. Settimana, beh, la prossima settimana sarà una settimana un po' particolare. Sabato del villaggio da Sanremo. Sì, sì, ci trasferiamo armi e bagagli, valigia, microfono e tutto quello che serve a Sanremo, quindi cercheremo di raccontarvi delle cose il però, più possibile divertenti. Però, et di Bellasio, et Marta Cagnola, sì? Hashtag Radio Tube, hashtag SDV podcast ringraziamo... o lunedì o subito vediamo cerco di metterlo subito perché sono stata piuttosto brava la brava. Scorsa settimana ce l'ho fatta, dai, vediamo se riesco a farlo subito e a metterlo subito online per chi si fosse distratto magari non so a un Radio semaforo qualcosa. Abbiamo tutto, ringraziamo Gianmarco in regia, noi ci risentiamo appunto il prossimo sabato alle 15 col Sabato del Villaggio, alle 17 con Radio Tube, a presto, ciao.